30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Una grande manifestazione a favore della TAV lanciata dal sindaco di Torino Sergio Chiamparino. L'appuntamento è per il 24 gennaio al Lingotto. Quel giorno sono chiamati a raccolta da un fronte istituzionale e politico trasversale ai partiti. Si ritroveranno amministratori, soggetti economici, culturali e sociali che, come dice il sindaco, continuano a credere nello sviluppo del nostro territorio, nella difesa dell'ambiente e nella realizzazione di infrastrutture decisive per la nostra economia. Buonasera e bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, il più discusso cantiere italiano, almeno attualmente, ritorna a muoversi. Il sindaco di Torino chiama a raccolta i sostenitori, insomma, in qualche modo chiama alla conta tra i chi è contro e che quindi è stato forse molto sentito in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, e che invece è a favore e di cui in realtà si ha come sempre meno traccia. Ma che cosa è accaduto? Perché si riparte dunque e si riparla di questo grande cantiere? Beh, direi che possiamo utilizzare subito un primo contributo audio per poi introdurre anche il nostro ospite di oggi. Stamattina sono iniziati i sondaggi, sono iniziati a Collegno, a Grugliasco, era nel programma e lo abbiamo mantenuto. Durante tutte le volte che io sono andato all'osservatorio e soprattutto quando ho incontrato tutti i sindaci della zona, io ho sempre detto che non era in discussione l'opera. L'opera si sarebbe realizzata, la volontà del governo era quella di farlo. Gli accordi presi e gli incontri che ho avuto tante volte con il collega francese, gli impegni presi dal governo più in generale, sono tutti tesi a realizzare l'opera. Ho detto tutte le volte che ho incontrato i sindaci della zona che l'osservatorio serviva per cercare di trovare un progetto il più possibile condiviso dai sindaci o comunque dalle comunità. Questo è il punto fermo che il governo ha sempre tenuto. E questo era il ministro Altero Matteoli, responsabile delle infrastrutture, pochi giorni fa qui a Radio 24, dice innanzitutto questa mattina sono ripresi i sondaggi a Collegno e a Grugliasco. Allora saluto il collega Marco Ferrando che è con noi questa sera dalla redazione di Torino. Buonasera Marco. Sì, buonasera Gigi, buonasera a tutti. Insomma, ripartono i sondaggi e naturalmente si riapre in qualche modo il dossier che non voglio dire che sembrava dimenticato, ma sicuramente si è stato assopito per molto tempo. Ma sì, di fatto siamo tornati per alcuni aspetti, almeno dal punto di vista della cronaca, a quello che avevamo visto poco più di 4 anni fa. Infatti era novembre-dicembre 2005, esattamente come adesso si dovevano iniziare in Valle di Susa, in Bassa Valle, i sondaggi, i carotaggi preliminari a quelli che poi saranno i cantieri per l'alta velocità. Quindi di fatto dal punto di vista tecnico la situazione è la stessa di 4 anni fa. Dal punto di vista invece del clima, anche dal punto di vista politico, effettivamente ci sono molte differenze. Ecco, sentiamo un po', tanto per una sorta di evocazione anche sonora, qual era il clima appunto del tempo di cui parliamo. Stiamo parlando di 4 anni fa, stiamo parlando dell'inverno anche in quel caso. Tu e il collega Pignatelli, Michele Pignatelli per Radio 24, eravate frequentemente in valle e... Ecco, ritirare il progetto, era il tempo delle manifestazioni, poi c'è stato anche quello degli scontri. Sì, era un momento molto convulso perché vale la pena di ricordare, era appunto novembre-dicembre 2005, quindi era vigilia di molte cose, diciamo così, perché era sia vigilia delle Olimpiadi di Torino 2006, quelle Olimpiadi che sarebbero svolte proprio in Valsusa, quindi anche la Bassa Valle sapeva di avere in un certo senso gli occhi del mondo puntati addosso, quindi sapeva di potersi, tra virgolette, permettere di alzare la voce. Ma era anche vigilia di elezioni, infatti nella primavera del 2006 poi si sarebbe votato per le politiche, dunque anche dal punto di vista politico c'era molta attenzione sulla valle, però effettivamente quello che spiccava quattro anni pochi mesi fa, era un clima, era una valle molto compatta, molto unita nel dire no alla TAV, e nel dire no soprattutto perché l'argomentazione forte che tutta la valle esprimeva dagli ambientalisti che dalla prima ora sono sempre stati contrari all'opera fino alla gente comune, quindi i sindaci peraltro, quant'altro, tutto ciò che li accomunava era il fatto siamo stati esclusi dalle decisioni forti che sono state prese riguardo a questa opera. Vogliamo dire la nostra, e come dire, abbiamo sentito da queste voci come appunto la gente sia scesa in piazza o in valle o in strada bloccando i trasporti, insomma attivando quelle iniziative che normalmente chi non è ascoltato poi mette in atto per esserlo. Voglio ricordarvi che quando parliamo di Valle di Susa, Val Sangone, che adesso sentiremo, insomma sono sempre più spesso unite, a parte che lo sono territorialmente, stiamo parlando di una comunità montana di circa 115.000 abitanti, sono 43 comuni, per cui spesso si sentono dei nomi singoli di comuni, ma insomma è una questione che riguarda l'intero territorio. Prima di ritornare da Marco Ferrando e quindi dal suo racconto e dalle sue spiegazioni e magari di ritornare anche tutti noi a fare il punto un momento su quello che è la grande opera in questione, vorrei farvi sentire ancora una voce, quella di Marco Virano, poi Marco Ferrando ci spiega di che si tratta. Ma io, guardi, un po' la valle la conosco. La valle è fatta di brave persone, la situazione si è esasperata ed è sfuggita di mano, no? Perché se un giorno si vorrà scrivere il manuale di come non si gestisce una grande opera, questa sarà una straordinaria esperienza pilota. Allora, voglio dire, io resto convinto che quando si riuscirà a discutere dei problemi concreti, degli accordi si troveranno. Il problema è che non siamo a quel punto lì, oggi dobbiamo rimontare la china della credibilità e della possibilità di dialogare. Non è che non ci sia stato dialogo, ma il dialogo in una forma corretta vuol dire che ci sono degli interlocutori, questi vengono riconosciuti come tali, si ascolta quello che dicono, si controdeducono le loro tesi, non è obbligatorio andare questo d'accordo. Dunque è Marco Virano, il concetto è molto chiaro, non è obbligatorio andare d'accordo, bisogna intanto però cominciare a parlare. Allora ci spieghi chi è questo signore? Sì, dunque, Mario Virano è il presidente dell'Osservatorio sulla Torino-Lione, che di fatto fu il grande risultato che il movimento NoTav ottenne nel 2005. Infatti, come dicevamo prima, il loro argomento, l'argomento della valle era ci avete escluso. Bene, la politica che a tutti i costi, dicevamo, vigilia di Olimpiadi, vigilia di elezioni, doveva in ogni caso mediare, la politica decise di aprire un tavolo tecnico, un tavolo politico sulla TAV e di istituire l'osservatorio che in questi anni ha lavorato, ha coinvolto i sindaci della valle, ha coinvolto anche i sindaci delle altre zone che saranno toccate dalla TAV, quindi della cintura torinese, di Torino, provincia, regione e quant'altro. Per 4 anni l'osservatorio guidato da Mario Virano che cosa ha fatto? Si è riunito periodicamente, più di 100 le sedute, per analizzare passo dopo passo tutti i singoli aspetti tecnici della Torino-Lione, ovviamente della tratta italiana. Questo vuol dire si è parlato di tracciato, si è parlato di riqualificazione delle aree toccate dalla nuova linea ferroviaria, si è parlato di compensazioni, si è parlato anche di quello che dovrà diventare in un certo senso la valle una volta che ci sarà la TAV. Di fatto sono state poste sul tavolo tutte le questioni che, come dicevano i NoTav all'epoca, erano state decise altrove. E questo di fatto ha aiutato a fare un po' di trasparenza sull'opera e quindi ha smontato, questi 4 anni in parte sono serviti a smontare la grande protesta dei NoTav di 4 anni fa, che era appunto quella di essere stati esclusi. Ecco, tra l'altro mi scuso, io ho detto per 2 volte direi Marco Virano, invece appunto Mario Virano, come giustamente Marco Ferrando ha ribadito. Ma insomma, da un lato questa storia rappresenta anche, come ha detto chiaramente appunto in quella breve intervista, una lezione su come le cose non vanno gestite sui grandi progetti, una modalità che purtroppo in Italia è ricorrente. Proprio mentre la Val di Susa si infiammava dall'altra parte dell'arco alpino in Alto Adige, avveniva un processo che è esattamente quello descritto appunto da Virano, cioè un dialogo tra le comunità e in quel caso è la provincia di Bolzano, certo condizioni magari culturali politiche diverse, ma insomma un grande dialogo, un grande incontro continuo e permanente per la costruzione di un altro tunnel, che è quello appunto del tunnel di base del Brennero. Marco, nel corso di questi 4 anni si può dire che il clima sia realmente cambiato all'interno della valle o si è solo, diciamo, assopita la protesta? Ma, diciamo, come accennavi prima, la valle è un territorio molto difficile da definire, anche da sintetizzare, quindi di fatto nessuno ha esattamente il polso della situazione, quindi la geografia esatta del dissenso, il perimetro del dissenso, probabilmente lo scopriremo solo a cose fatte. Sicuramente quello che si può dire è che rispetto a 4 anni fa c'è stata molta condivisione del progetto, se ne è parlato molto, si è parlato molto dell'opera, diciamo in termini con molti più condizionali. Questo ha aiutato, nel senso che effettivamente mentre fino al 2005 si sapeva che si sarebbe dovuta fare l'opera così, punto e basta, invece in questi 4 anni si è effettivamente realizzato che alcune modifiche, alcune istanze del territorio potevano essere accolte. Tanto è vero, non possiamo dimenticarlo, che il progetto non è ancora stato realizzato, ovviamente neanche, quindi la progettazione deve ancora partire, però comunque al momento l'ipotesi di tracciato è diversa rispetto a quella di fine 2005, questo proprio perché di fatto sono state accolte le istanze della valle. Insomma, variazioni d'opera e come hai detto, io vorrei ripartire proprio da questo punto tra un momento, il progetto comunque definito non c'è ancora. 30 minuti in cronaca. 72 chilometri totali di ferrovia tra Lione a Saint-Jean-de-Maurienne, tra Saint-Jean-de-Maurienne a Susa verso la Bassa Valle fino a Settimo Torinese, dove appunto avverrà, diciamo, l'innesto con la rete di alta velocità italiana. 57 chilometri di tunnel, di cui 12 in Italia. Questo, diciamo, è in estrema sintesi il progetto della TAV, quindi della tratta ad alta velocità, che dovrebbe costituire la sezione italiana piemontese di fatto del Corridoio 5, grande opera infrastrutturale attraverso l'Europa che fa parte appunto delle linee guida dei progetti di lunga durata dell'Unione Europea. Ma insomma, ritorniamo dunque alla valle e ritorniamo per fare il punto su quella che è la situazione ora che il cantiere si rimette in moto. Marco Ferrando, che ricordo segue di fatto da molti anni questo dossier, ci hai raccontato perché si ritorna a parlare e a discutere, ma ci siamo lasciati dicendo c'è una scadenza, insomma perché ora il tempo stringe davvero? Tempo stringe davvero perché naturalmente le questioni importanti sono questioni di risorse, di fondi europei che incombono. L'Europa ha stanziato una fetta consistente dei fondi destinati alle grandi reti europee sulla Torino-Lione, però chiede di fare in fretta. In particolare il nodo da sciogliere adesso entro la primavera, le scadenze tecniche in realtà sono diverse, comunque entro la primavera si deve sciogliere il nodo del tracciato. Ovviamente non si parla ancora di progettazione, serviranno anni, non è un'operazione semplice, però almeno il primo nodo che l'Italia deve sciogliere appunto è dove passerà la TAV nella tratta italiana, quindi in quali punti attraverserà la valle. Questo è il primo punto da superare e proprio per questo sono fondamentali i sondaggi, 91 sondaggi diagnostici che servono a capire la consistenza e la conformazione del terreno in Bassa Valle di Susa, che stanno partendo adesso e che non possono essere differiti. Perdere del tempo vuol dire non rispettare le scadenze e quindi vuol dire perdere di fatto la possibilità di utilizzare le risorse europee. Abbiamo sentito la protesta, abbiamo sentito la posizione delle comunità e la loro forte richiesta di un dialogo. Adesso vorrei invece sentire l'attualità, quindi Sandro Plano, che è il presidente della comunità montana Valle di Susa Valsangone, che ci ha parlato di fatto pochissimi giorni fa. Sentiamolo. Ribadisco la mia posizione, che è una posizione istituzionale. Io riconosco al governo, alla provincia, alla regione il pieno diritto di fare quest'opera. Io rappresento un territorio e il territorio esprime questo profondo disagio su questa ennesima infrastruttura che deve percorrere il nostro territorio. Questo è un dato di fatto, non siamo rivoluzionari, però effettivamente la nostra valle è stata percorsa da un'infinità di infrastrutture e questa è un'ennesima prova. Non siamo rivoluzionari, dice Sandro Plano. Ecco, qual è dunque a tuo avviso anche lo stato della comunità rispetto a quest'opera oggi? Ma lo stato della comunità è di una profonda spaccatura, perché anche qui l'operazione è complessa ma interessante, perché di fatto rispetto a 4 anni fa adesso c'è una sola comunità montana per tutta la Val di Susa, invece 4 anni fa erano 2 diverse comunità, Alta e Bassa Valle. L'unione fatta per razionalizzare gli enti di fatto non ha sanato appunto la spaccatura che vede la maggioranza della Bassa Valle contro l'opera, anche se poi bisognerebbe vedere comune per comune, perché come dicevo anche prima non è facile dire chi è pro e dire chi è contro, però tendenzialmente diciamo il dissenso è più concentrato ovviamente sulla Bassa Valle, che è quella attraversata fisicamente dall'opera, mentre l'Alta Valle, che politicamente guarda più al centrodestra, è invece storicamente, quindi anche in questo momento, a favore dell'opera. La stessa elezione di Sandro Plano a presidente, Sandro Plano che tra l'altro a fine 2005 era sindaco di Susa, quindi già aveva partecipato all'epoca nei panni del mediatore, appunto della figura di dialogo, comunque insomma la stessa elezione di Sandro Plano a presidente della comunità, che oggi Sandro Plano, che oggi è espressione essenzialmente di chi l'opera non la vuole, è stata un'elezione molto burrascosa che ha spaccato di fatto la valle, mettendo da una parte la bassa e da una parte l'alta. Ecco, su questo aspetto forse vale la pena chiarire che nella parte bassa ovviamente il tracciato è completamente esposto e anzi ci sono state parecchie richieste, quindi innalzamenti di costi anche per mitigare l'impatto del tracciato, mentre via via che ci si avvicina alle montagne naturalmente si moltiplicano i tratti in galleria, anzi si arriva poi alla lunga galleria. Esattamente. Poi l'Alta Valle ovviamente fatta da comuni molto diversi, piccoli comuni che vivono molto di turismo e che di fatto hanno più da beneficiare che non da perdere dall'opera, perché evidentemente si farebbe traffico, quindi anche dal punto di vista turistico sicuramente l'accessibilità di località turistiche come Sestriere, come Bardonecchia sicuramente ne beneficerebbe. Certo, ci sarebbero vantaggi più precisi. A proposito dell'impatto, ecco, in questi anni sono stati fatti anche molti studi naturalmente, perché come dire, molto spesso anche in Italia si parla dell'impatto delle grandi opere come se i cantieri fossero in qualche modo destinati a permanere o a rimanere, a sfregiare inevitabilmente un territorio. So che a Torino ci sono state parecchie proposte per un ipotetico, direi finora, dopo TAV. Sì, è vero, questi anni sono serviti anche a questo e non è poco. La premessa è che comunque non è facile immaginare quello che sarà la valle dopo la TAV, perché comunque sarà un'opera che richiederà anni e anni di lavoro e quindi evidentemente in un futuro che sembra molto lontano, che però ovviamente deve essere preso in considerazione fin da subito. In particolare tra i tanti studi ce n'è uno secondo me interessante che è stato realizzato da Union Trasporti, il quale ha messo in luce come finita la TAV, quindi razionalizzati gli spazi anche della Bassa Valle, un'area che comunque attualmente è già attraversata dalla linea storica della ferrovia, da un'autostrada, da 2 statali, quindi comunque un'area diciamo stressata dal punto di vista dei trasporti. Ebbene, finita la TAV, dice questo studio di Union Trasporti, nel caso in cui si riuscisse a interrare anche la linea storica, quindi approfittare del tunnel per, diciamo, tra virgolette, infilarci anche i treni che corrono sulla linea storica, la Bassa Val di Susa, quella che oggi non vuole essenzialmente l'opera, potrebbe guadagnare qualcosa come 150.000 metri quadrati di nuovi spazi, nuovi spazi da destinare ad aree verdi, a residenzialità, diciamo, di alto livello, quindi insomma ci sarebbe un gigantesco spazio di cui la Valle potrebbe rimpossessarsi, facendone di fatto quel che vuole, quindi diventando di meno ostaggio, diciamo così, delle grandi vie di comunicazione come oggi. Certo, si tratta naturalmente di capire il progetto, i costi anche appunto per mitigare l'impatto sono notevole e poi si tratta di rispettare gli impegni sui tempi lunghi, cosa che immagino chi si trova il cantiere magari per 15 anni davanti sul piano individuale, insomma, ha di che dubitare, è una cosa assolutamente legittima, ma tutto questo naturalmente poi va inquadrato in un grande contesto che sono appunto le reti ferroviarie, che sono le reti transeuropee, che sono i sistemi in un continente in cui appunto i trasporti sono sempre più ramificati. Abbiamo ancora un paio di minuti con Marco Ferrando, io vorrei concludere su un aspetto che è quello della politica. Ci dicevi poco fa, 2005-2006, grande tensione, grandi, come dire, partecipazioni, anche perché eravamo alla vigilia di un voto. Beh, lo siamo di nuovo, direi, ancora la primavera porta un voto e allora vorrei chiederti in che modo le regionali diciamo stanno pesando oggi nella vicenda TAV-NOTAV. Sì, appunto, mentre 4 anni fa il voto era politico nazionale, quindi la partita era più complessa, questa volta la partita è locale, si tratta delle elezioni regionali per il Piemonte. Mercedes Bresso, che sarà la candidata del PD, quindi del centro-sinistra, ha chiaramente detto di essere a favore. È curioso quello che sta capitando invece al centrodestra, perché il centrodestra, che è storicamente è sempre stato pro-TAV, al momento fa più fatica, come dire, a cavalcare il momento, perché tanto è vero che la proposta con la quale di cui parlavamo in apertura della giornata pro-TAV è partita da Sergio Chiamparino, quindi dalla sinistra. È come se la sinistra, il centro-sinistra in questo momento, anche beneficiando, se vogliamo, del clima di relativa calma con cui stanno avvenendo i carotaggi in questi giorni, cercasse di cavalcare essenzialmente questo clima e quindi anche di cavalcare il tema della TAV, mettendo insieme tutti quelli che effettivamente sono a favore dell'alta velocità. Anche perché non possiamo dimenticare che Mario Virano, il responsabile dell'osservatorio sulla Torino-Lione, il grande mediatore di questi anni, è un uomo che comunque arriva dalla sinistra, quindi diciamo il centro-sinistra ad oggi, alla vigilia di questo voto, sta cercando in un certo senso di capitalizzare essenzialmente il percorso compiuto in questi 4 anni. Grazie a Marco Ferrando, che oggi da Torino è stato con noi appunto per continuare a seguire questo dossier importantissimo della alta velocità in Italia e in questo specifico naturalmente in Piemonte per la rotta Italia-Francia. 30 minuti in cronaca, ve lo ricordo, come tutti i programmi di Radio 24 lo trovate, li ritrovate sul web, quindi radio24.it. Ringrazio anche Peter Bescapè questa sera con me in regia e non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana a tutti.